Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il voto segreto è la fiera degli idioti. E di quelli che non sanno come fare a giustificarsi e quindi il segreto dell'urna fanno come gli pare. I franchi tiratori sono una vecchia invenzione. Per quanto mi riguarda, io sono berlusconiano e sto alle direttive di partito. Questo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è Denis Verdini di Forza Italia. Molti dentro Forza Italia vogliono la sua testa dopo l'elezione di Mattarella, per come sono andate le cose. Insomma, visto che Verdini è stato, possiamo dire, il regista all'interno di Forza Italia del patto del Nazareno, il famigerato, famoso, secondo il punto di vista, patto del Nazareno. Parleremo moltissimo di politica, naturalmente, all'indomani dell'elezione a Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella, con tutto lo scompiglio che ha creato, soprattutto nel centrodestra, per questa mossa a sorpresa di Renzi, così all'ultimo momento, un giorno e mezzo prima, due giorni prima, ha tirato fuori il nome di Mattarella. Bene, dicevo, quindi sicuramente parte dominante di questa puntata la politica. Parleremo però anche delle motivazioni del Tribunale del Riesame di Ragusa sul no alla scarcerazione della mamma del piccolo Loris, che è stato ucciso, il bambino di 8 anni, ucciso il 29 novembre scorso. Spiegano che avrebbe agito da lucidissima assassina. Poi ne parleremo con l'avvocato, ci sarà l'avvocato Villardita, avvocato di Veronica Panariello, e ci sarà anche un corrispondente da Ragusa. Vi ricordo invece che per la politica, voi preparatevi a fare i vostri commenti sia attraverso il numero per gli sms, che è il 349-238-6666, sia attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte. Vi dicevo, dovremmo raggiungere il senatore Quagliariello del nuovo centrodestra per capire che intenzioni ha, che prospettive il nuovo centrodestra dopo questa specie, qualcuno batosta che ha ricevuto dall'alleato di governo che è il PD di Renzi. Quindi partiamo con le notizie, con la giornata, come al solito, che vi racconto all'inizio. Quirinale, domani il giuramento di Mattarella. Renzi dice: ora mettiamo il turbo, non sprecherò tempo coi partitini. Lupi del nuovo centrodestra replica: non siamo tappetini. E per Berlusconi, fine pena anticipata. L'omicidio di Loris, il Tribunale dei riesamini, le motivazioni per il no alla scarcerazione di Veronica Panariello, scrive: agì da lucidissima assassina. La crisi ucraina, gli Stati Uniti valutano il rifornimento di armi a Kiev, i ribelli reclutano 100.000 uomini, accuse di Mosca ad Obama, e Putin dice subito stop alle violenze. Maltempo soprattutto al sud, per giovedì attesa la grande nevicata sulle regioni del nord. Auto partenza sprint per il mercato dell'auto italiano a gennaio con un più 10,9%. E per lo sport sono le ultime ore di calciomercato. Matri torna alla Juventus, alla Sampdoria già lite tra Eto'o e Milanovic. Si chiude il calciomercato alle 23. Siamo sempre come da giorni con la politica in primissimo piano all'indomani delle elezioni di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Domani ci sarà la cerimonia di giuramento, presenterà ufficialmente le dimissioni della Corte Costituzionale, resterà comunque giudice emerito. Intanto Renzi rilancia sulle riforme, ma come vi dicevo c'è alta tensione con e dentro il nuovo centrodestra. Presidente del Consiglio Renzi fa quadrato attorno al percorso di rinnovamento. L'elezione del capo dello Stato mette il turbo, non rallenta le riforme, avanti tutta, dice allora il Premier. Io non passo i prossimi mesi a parlare con i partitini, ma tra gli italiani, per rimettere in moto il Paese. Chiaro il riferimento alle lamentele del nuovo centrodestra per come è stata condotta la partita del Quirinale. La replica di Lupi. E al segretario del Partito Democratico, nonché al Presidente del Consiglio, ricordo che noi non siamo abituati a fare i cespugli e non siamo nati per fare i cespugli. Quindi non siamo attaccati ovviamente alle poltrone, ma non siamo neanche abituati a fare i tappetini. Nuovo centrodestra che vede l'addio della portavoce Saltamartini, che in molti danno già nella Lega di Salvini. Confronto interno aperto anche in Forza Italia, sotto accusa il gruppo dirigente per il patto del Nazareno. Affitto che ne chiede l'azzeramento, risponde Toti. Trasformi le idee di opposizione in idee di gestione, dice il consigliere politico di Berlusconi. Fitto entri con un patto generazionale, un patto dei quarantenni. A nuovo centrodestra e Forza Italia tende la mano intanto dal Partito Democratico la vice segretaria Serracchiani. Noi i numeri li abbiamo, è chiaro però che abbiamo avviato un percorso di riforma insieme al nuovo centrodestra, insieme a Forza Italia, e vorremmo portarlo avanti, anche perché insomma non abbiamo violato alcun patto. Polemico infine il Movimento 5 Stelle sulla presenza domani di Berlusconi al Quirinale. È un ottimo segnale per chi froda il fisco, dice ironico Sibilia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Frecce tricolori, campagna festa, salve di cannone, onori militari, una cerimonia antica in pompa magna, quella che si ripete con ogni nuovo presidente della Repubblica. Comincia tutto alle 9.30, quando Sergio Mattarella viene prelevato dalla sua abitazione, la foresteria della Consulta, dal segretario generale della Camera per arrivare a Montecitorio. Nel tragitto viene scortato da 18 carabinieri e le campane della Camera dei Deputati cominciano a suonare ininterrottamente. Alle 10 il giuramento dinanzi alle Camere riunite, accompagnato da 21 colpi a salve sparati dal cannone del Gianicolo. Poi il discorso, che secondo indiscrezioni sarà asciutto e non eccessivamente lungo, incentrato sui temi già anticipati in quell'unica frase pronunciata il giorno della sua elezione: difficoltà, speranze e unità del Paese. Ma ci sarà spazio anche per le riforme economiche, istituzionali, per il lavoro, per l'Europa. Terminato il discorso, Mattarella si recherà all'altare della Patria per l'omaggio al Vittoriano. Poi il tragitto verso il Quirinale a bordo della famosa Lancia Flaminia 335. Al Quirinale gli onori militari, un breve discorso dinanzi alle autorità presenti, il passaggio di consegne con il presidente supplente Grasso, il rinfresco nel salone delle feste, e intanto arrivano già gli auguri della cancelliera Angela Merkel, che di lui dice è un politico di alta esperienza. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Insomma, qual è secondo voi, quali sono le possibili prospettive del centrodestra in Italia dopo queste spaccature, questi malumori sia del nuovo centrodestra che in Forza Italia? Il numero per i messaggi è 349-238-6666, poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte a qualsiasi ora per i vostri commenti. E domani alla cerimonia di giuramento, dicevamo, del nuovo capo dello Stato ci sarà anche Berlusconi. Oggi gli è stato concesso per buona condotta uno sconto di pena. Tolto l'episodio di Napoli al processo La Vitola, Berlusconi si è sempre comportato in modo corretto. Per questo il giudice di sorveglianza di Milano, Beatrice Crosti, ha dato il suo assenso alla richiesta di liberazione anticipata, uno sconto di 45 giorni che farà terminare l'8 marzo il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali che l'ex cavaliere sta scontando dopo la condanna definitiva per il caso Mediaset. Il giudice di sorveglianza non ha tenuto conto dunque del parere negativo espresso invece il 27 gennaio scorso dall'ufficio di esecuzione della procura milanese. Tempi più stretti adesso per un rientro in politica? Berlusconi resta incandidabile per 6 anni per via della legge Severino, ma potrà adesso chiedere la riabilitazione prevista dalla legge e per la quale devono passare 3 anni dalla fine della pena senza altre condanne. Annalita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Giornata intensa domani, perché sempre domani, dopo la cerimonia per il Colle, Renzi incontrerà Alexis Tsipras, il neo primo ministro greco. Nel suo tour europeo arriva infatti anche in Italia. Non date retta ai titoli dei grandi quotidiani economici internazionali. L'anticonformista ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis si è presentato così oggi all'incontro col collega inglese George Osborne. Look casual in stile Matrix, Varoufakis ha in agenda pure un meeting con gli investitori e i banchieri della City. Lo stallo tra la Grecia e l'Eurozona sta diventando il più grande rischio per l'economia globale, ha avvertito a fine incontro il britannico Osborne, precisando di aver chiesto a Varoufakis di agire in modo responsabile e di voler vedere dall'Europa un piano migliore su crescita e occupazione. L'offensiva a tutto campo del duo Tsipras-Varoufakis prosegue, mentre i big comunitari appaiono scoordinati nella risposta. Dopo la mano tesa della Francia ad Atene per ridurre il fardello del debito e lanciare riforme strutturali, la Germania nega che una riforma della Troika o un cambiamento del meccanismo di valutazione dei programmi di salvataggio siano in programma. Affermazione esattamente opposta a quella della Commissione europea. Jean-Claude Juncker ha già detto che la Troika non ha futuro e che pensa a un meccanismo di controllo parlamentare sugli accordi, dichiarano da Bruxelles, dove mercoledì approderà Tsipras, il giorno dopo il vertice a Roma con Matteo Renzi. Tsipras ha commentato con favore le parole di Juncker e ha negato che chiederà prestiti alla Russia. Dagli Stati Uniti di salvagente di Barack Obama, la Grecia non otterrà una forte ripresa economica a meno che le autorità non allentino i programmi di austerità. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo all'estero, ma negli Stati Uniti. Obama, il presidente americano, ha confermato che la manovra di bilancio inviata al Congresso ammonta a 4.000 miliardi di dollari e prevede un aumento delle tasse sulle multinazionali e per le fasce di reddito più elevate. Gli introiti andranno a finanziare un piano di rilancio delle opere pubbliche e sgravi fiscali per le famiglie. Tra le proposte c'è un aumento delle royalties che le aziende energetiche pagano per ottenere le concessioni per le trivellazioni di gas e di petrolio. E per quanto riguarda la crisi ucraina, gli Stati Uniti stanno valutando il possibile rifornimento di armi a Kiev, perché questa crisi sta precipitando. La guerra tra Kiev e Mosca è un'ipotesi ritenuta inverosimile fino a 3 mesi fa, adesso viene considerata come possibile. I colloqui di pace di Minsk sono stati abbandonati come carta straccia alla tregua del 9 settembre. Angela Merkel, in visita a Budapest, assicura che non fornirà armi a Kiev perché dice non c'è soluzione militare a questa crisi, mentre Washington, secondo il New York Times, considera apertamente l'intervento finanziario per sostenere l'esercito del governo guidato da Petro Poroshenko. I combattimenti si concentrano da qualche giorno a metà strada tra Donetsk e Lugansk, nel nodo ferroviario stradale di Debaltseve, una cittadina quasi accerchiata dalle forze separatiste della Repubblica Popolare di Donetsk, la cosiddetta DNR, ma ancora in mano alle truppe fedeli a Kiev. Alexander Zakharchenko, il 38enne leader militare e primo ministro dell'entità separatista sostenuta da Mosca, ha annunciato intanto l'intenzione di lanciare entro l'11 febbraio una mobilitazione generale per richiamare alle armi fino a 100.000 persone da schierare lungo la linea del fronte, che ormai si sviluppa per quasi 300 chilometri. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso in Egitto, dove un tribunale ha emesso oggi una condanna a morte collettiva. Condanna di massa in Egitto. La corte d'assise di Giza ha condannato alla pena capitale 183 sostenitori dei Fratelli Musulmani accusati di aver ucciso 13 poliziotti nell'agosto 2013. Provvedimenti di gruppo contestati da istituzioni internazionali, governi e ONG perché i processi di massa certo non rispettano gli standard giuridici occidentali. Nel frattempo, a giorni, l'ex presidente Morsi tornerà a processo per la quarta volta. Intanto sul fronte ISIS, il Giappone sta ancora facendo i conti con lo shock per la decapitazione del reporter Goto a pochi giorni, tra l'altro, dall'uccisione di un altro ostaggio nipponico. E si è saputo che anche una donna americana, una cooperante di 26 anni, è nelle mani dello Stato Islamico da un anno e mezzo. Lo ha ammesso il presidente americano Barack Obama, che ne ha parlato in un'intervista alla NBC, assicurando il massimo impegno per riportare la donna a casa. I jihadisti non hanno mai ucciso finora ostaggi femminili occidentali. Per la liberazione della donna hanno chiesto oltre 6 milioni di dollari, ma Washington mantiene ferma la sua politica di non pagare il riscatto degli ostaggi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per la cronaca, l'omicidio del piccolo Loris, con il tribunale di riesame che nelle motivazioni in cui conferma il carcere per la mamma di Loris dice: Veronica Panarello è un'assassina lucidissima. Di questo vi dicevo, parleremo poi più tardi con l'avvocato di Veronica Panarello. C'è una buona notizia per il mercato dell'auto in Italia: partenza sprint a gennaio, le matricolazioni secondo i dati del Ministero dei Trasporti hanno avuto un 10,9% in più dello stesso mese del 2014. E poi il meteo: in attesa della grande nevicata al nord, che dovrebbe arrivare giovedì, è il sud Italia in queste ore a registrare i danni maggiori per il maltempo. In Sicilia, Palermo, molti gli allagamenti, le segnalazioni di cornicioni pericolanti. In Sardegna, Nuoro, il comune ha chiuso le scuole e ha invitato i cittadini a limitare l'uso delle auto. Tutta l'isola è colpita da correnti gelide, nevica anche in Basilicata e a Potenza. In provincia le scuole sono rimaste chiuse, disagi per la pioggia e vento in Campania, con cadute di intonaci, infiltrazioni d'acqua e rami pericolanti a Napoli, col Vesuvio ricoperto di neve. Insomma, il sud molto pesantemente colpito dal maltempo. Danni anche in Calabria, regione che chiederà lo stato di emergenza. Sentiamo il microfono di Enza Loddo e Enrico Forte della Protezione Civile Calabria. Il litorale, sono segnalate criticità soprattutto nel comune di Diamante, Belvedere, fino ad arrivare nella zona del Catanzarese. C'è stata una grossa frana a Policastro. Abbiamo questa segnalazione della frana che ha coinvolto alcune abitazioni presenti lì, si è reso necessario l'evacuazione di quell'area. Il livello di allerta qual è fino a domani? Siamo sempre ai livelli più alti di allerta. Teniamo sotto osservazione l'intera situazione, che chiaramente evolve di momento in momento. E poi, per chiudere, il calciomercato, ultime ore di varie manovre, di acquisti, di vendite, si chiude alle 23, quindi poi ci aggiorneremo anche su questo. Intanto vi leggo alcuni dei messaggi che stanno arrivando, sia al 349-238-6666, sia alla pagina Facebook di Effetto Notte. Scrive Carlo da Torino: quelli di Alfano non sono attaccati alle poltrone, nel senso che fanno corpo unico con le poltrone stesse, scrive così Carlo. Albert da Padova: questa volta Berlusconi ha guidato il centrodestra alla Schettino, ci vuole un leader giovane e brillante per per contrastare Renzi. Invece Alberto da Lecce, sulla notizia prima di Obama, dice: grande Obama che tassa la finanza a favore dell'economia e noi facciamo favore agli evasori fiscali. Che tristezza, così Alberto. Bene, tra poco ci soffermeremo sulla politica italiana, naturalmente, come vi dicevo, dovremo raggiungere il senatore Quagliariello del Nuovo Centrodestra, quindi non vi staccate qui da Effetto Notte, aggiorniamo intanto chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, vedo che continuano ad arrivare i vostri commenti. Dite pure, secondo voi, qual è, scusate, poca voce questa sera, quali possono essere le possibili prospettive del centrodestra in questo momento in Italia, dopo questo strappo sull'elezione di Mattarella, sia alla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666 per i vostri messaggi. Intanto vi riassumo brevemente le notizie. Sconto di pena per Berlusconi, sarà libero l'8 marzo per la condanna media, 745 giorni in meno ai servizi sociali. Renzi al centrodestra dice: le riforme col turbo adesso, anche senza di voi. Lupi, il ministro del Nuovo Centrodestra, dice: non siamo un tappetino. Resa dei conti intanto in Forza Italia. Il giorno di Mattarella, nel suo discorso domani giurerà crisi e riforme, giuramento e insediamento. C'è Berlusconi presente, Grillo invece ha dichiarato che non andrà. Tsipras, neoministro greco a Roma da Renzi da domani. Intanto il premier cerca di mediare fra Berlino e Atene. Il tribunale di riesame dice che la mamma di Loris ha agito da lucidissima assassina. Le motivazioni, c'è scritto nelle motivazioni di conferma dell'arresto, e la descrivono come avendo agito con agghiacciante indifferenza. Poi gli Stati Uniti, che valutano se rifornire di armi Kiev, e la guerra tra Kiev e Mosca che rischia veramente di degenerare. E poi avete sentito del calciomercato, ci aggiorneremo più tardi perché dovrebbe chiudere entro le 23. Parliamo dunque della politica, del dopo Mattarella, di ciò che avviene nella politica italiana dopo questa elezione al Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella. Domani intanto ci sarà, come vi dicevo, il giuramento, la cerimonia di giuramento del nuovo Capo dello Stato, e si è trattato di un'elezione che ha creato un certo travaglio, soprattutto nel centrodestra. Renzi ha tenuto il nome del candidato segreto un po' sino all'ultimo, vi ricordate, con Effetto Notte, proprio giovedì sera all'ultimo alle 22 è uscita la notizia di Guerini, vice segretario del PD, che diceva: per noi iniziamo e finiamo con Mattarella. Ed è riuscito comunque Renzi a ricompattare con questa candidatura il suo partito, no? Con la minoranza che aveva avuto un rapporto piuttosto contrastato sino a poco prima col segretario del PD Renzi, e paventava anche una scissione. Vi ricordate Fassina, Bersani, e che poi è rientrata col consenso unanime su Mattarella. Il travaglio forte l'ha vissuto in realtà il centrodestra, con strascichi molto forti in questi giorni. Berlusconi, che ha accusato Renzi di aver tradito il famoso patto del Nazareno, e con vari parlamentari, soprattutto Fittiani, che seguono l'europarlamentare Fitto, che chiedono la testa di Verdini, che è stato un po', vi dicevo, il regista del patto del Nazareno e anche del rapporto, insomma, tra Berlusconi e Renzi. E dall'altra c'è il nuovo centrodestra di Angelino Alfano, che percorso da molti malumori, oltre che da qualche dimissione, si è dimesso Sacconi da capogruppo, poi ci sono state le defezioni in Emilia di Cazzola e Berselli, lascia anche Barbara Saltamartini la portavoce per questo strappo, insomma, di Renzi sul Presidente della Repubblica. Nuovo centrodestra che sta al governo con Renzi, col PD, che alla fine ha contribuito in maniera massiccia, anche se non compatta, non all'unanimità, insomma, a convergere sul nome di Mattarella. Sta però perdendo pezzi, e dietro questi malumori c'è pure la possibilità di aprire delle alleanze nuove, o mollando Renzi, compattando il centrodestra, oppure rivedendo un po' il rapporto con Renzi. Che cosa hanno intenzione di fare? Lo chiedo al senatore Gaetano Quagliariello, che saluto e ringrazio di essere qui. Buonasera, Quagliariello. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Che è coordinatore nazionale del partito. Vi trovate un po' un bivio, Quagliariello, in questo momento? Sì, ci troviamo esattamente a un bivio, perché che cosa è accaduto? Il travaglio lo abbiamo avuto anche nei giorni dell'elezione del Presidente della Repubblica. Noi apprezzavamo il nome di Mattarella, non apprezzavamo il metodo col quale quel nome è stato scelto, ma per una ragione semplice: quando c'è un'alleanza, gli alleati, insomma, in qualche modo si mettono d'accordo. Se invece c'è la posizione di uno e a seconda dei problemi, e quest'uno si allea a destra o a sinistra, coloro i quali vengono portati, diciamo, nel cono di luce, ora da una parte ora dall'altra, ovviamente ne approfittano. È successo a Berlusconi ogni volta che è andato a Palazzo Chigi per il patto del Nazareno, e poi è successo a Bersani, alla sinistra del PD, quando si è scelto il Presidente del Consiglio. Ma invece coloro i quali sono alleati stabili di questa forza ovviamente rischiano di essere marginalizzati. Allora, per noi il problema oggi si pone in questi termini: c'è la possibilità di un'alleanza strutturale che serva a fare quelle riforme che servono all'Italia e che sono utili all'Italia? Insomma, De Gasperi gli alleati se li inventava quando non li aveva, e qui c'è il problema di riconoscere la dignità di un'alleanza. Se questa possibilità non c'è, se non sappiamo con chi si fanno le riforme, quali sono le riforme, quando si fanno le riforme, insomma, la nostra ragione di essere al governo viene meno. Questo è il problema, questo è il nodo che per noi deve essere sciolto. Non si tratta di rituali di vecchia politica, si tratta di risposte che si devono al Paese, all'Italia. Senatore Quagliariello, le faccio sentire un passaggio di cosa ha detto oggi Renzi a proposito delle polemiche, delle possibili spaccature del nuovo centrodestra, della eventuale verifica di governo. Sentiamo. Io non passo i prossimi mesi a chiacchierare e a discutere con le singole correnti dei partitini. Io nei prossimi mesi voglio stare in mezzo alla gente a dire perché se ce la mettiamo tutta l'Italia riparte. Oggi RTL ha detto questo. Mi dice, senatore Quagliariello, che cos'è che vi ha fatto cambiare idea un po' all'ultimo su Mattarella? Perché avete annunciato scheda bianca come Forza Italia. Sì, poi... è molto semplice. Noi ci siamo trovati a dover scegliere tra una persona a cui andava il nostro apprezzamento e un metodo che aveva portato all'indicazione di questa persona sbagliata e che secondo noi si sarebbe riverberata negativamente sul corso dell'azione di governo e sulle riforme necessarie. Tra un metodo e una persona abbiamo scelto una persona, abbiamo scelto anche di separare il confronto sul governo dal momento dell'elezione del Presidente della Repubblica. Ora, insomma, quel chiarimento ci deve essere. Anche noi non abbiamo intenzione di passare il prossimo tempo a litigare, tantomeno a chiedere verifiche, nessun rito della vecchia politica. Noi abbiamo la necessità, attraverso un confronto, di capire se c'è la dignità di un'alleanza e se siamo d'accordo sulle riforme da fare, che sono le riforme per rilanciare l'economia, per rendere un fisco più equo e per riformare lo Stato. Il ministro del nuovo centrodestra Lupi ha detto: non siamo attaccati alle poltrone, ma neanche siamo abituati ad essere dei tappetini. Lo stesso concetto l'ha ripetuto Nunzia Di Girolamo. Sentiamo. Mi sembra che le battute di Matteo Renzi di questi giorni ci debbano indurre ancora di più a una riflessione. Una cosa è certa: non possiamo essere degli alleati a comando, dei tappetini. Io non sono disponibile, almeno. Insomma, lei diceva, Quagliariello, non sulla persona, non sul merito, ma nel metodo vi siete sentiti un po' umiliati? Ma non è nemmeno una questione di umiliazione, ripeto, è capire come si va avanti. Vede, Renzi aveva formato lui una maggioranza sulle riforme pochi giorni prima, poi invece sulla Presidenza della Repubblica è partito dal suo partito, mi scusi il gioco di parole, cioè da pochi giorni prima era partito dall'alleanza necessaria tra virgolette con Berlusconi, sulla Presidenza della Repubblica è partito dall'alleanza necessaria con la sinistra del PD. In questo modo non siamo più a un'alleanza classica in cui diciamo questo è quello che vogliamo fare, questo è quello che serve al Paese, ma siamo a una specie di metodo che parte da un obelisco, intorno all'obelisco di solito di volta in volta aggrega quello che è necessario. Se è così ne dobbiamo prendere atto, se non è così e invece ci mettiamo d'accordo per un'alleanza che appunto abbia dignità, noi abbiamo sempre garantito innanzitutto il Paese. lo abbiamo fatto e lo continueremo a fare. Vede, in questa ricerca forse oggi ci troviamo in una posizione un po' favorita, perché ora Renzi una maggioranza la trova sia alla Camera che al Senato, e dunque o noi facciamo un accordo basato sulla convinzione, sulla dignità e sulle cose da fare, oppure ci sentiamo anche più liberi, perché non è più in dubbio forse la legislatura e soprattutto il futuro dell'Italia. Ma se vi sentite più liberi, nel senso che potreste uscire dal governo e magari fare un appoggio esterno? Io ripeto, non è questo il nostro intendimento, anzi il nostro intendimento è quello di trovare le ragioni per andare avanti, ma per poterlo fare bisogna essere in due, non basta la volontà di uno solo, è un po' come nelle alleanze, un po' come i matrimoni. Le faccio sentire anche un passaggio di Bersani e poi di Verdini. Il patto Nazareno contemplava il Quirinale? Questo non si è mai saputo, io non lo so, credo certamente che Mattarella non potesse essere contemplato, neanche eventualmente, ecco, come si è visto, quindi col petto sì. Poi io come si è detto Carlo Rovelli, a volar bassi sì. Si invecchia meno. Adesso Verdini. Il patto del Nazareno è una questione politica, non è una questione notarile. È una questione politica ed è evidente che facendo insieme le riforme costituzionali e quelle elettorali si dovesse arrivare a un presidente condiviso. Io penso che i numeri del Parlamento siano talmente grandi che Renzi poteva fare qualunque altra cosa, perché avete visto i numeri e noi siamo abbastanza irrilevanti, cosa che spesso non si considera. Comunque, tutto qua. Da Renzi. Uno si delude delle proprie fidanzate. Quagliarello, le faccio l'ultima domanda. Verdini da una parte ammette che nel patto del Nazareno doveva essere compreso anche l'accordo sul Presidente della Repubblica, dall'altra dice ha una tale maggioranza Renzi che noi possiamo essere irrilevanti. C'è il rischio che dividendovi voi, il Nuovo Centrodestra e Forza Italia, siate diventati un po' ininfluenti? Quindi che intenzioni avete tra voi come centrodestra, Quagliarello? Ma guardi, io le dico sinceramente, io penso che noi non possiamo partire da quel che siamo, c'è bisogno di un progetto nuovo e di, tra virgolette, rifondazione, e sono anche convinto che diciamo, il centrodestra, quell'area che sta tra Matteo Salvini e Matteo Renzi si può rifondare se partecipa fino in fondo alla rifondazione del paese, se non si estranea dalla rifondazione del paese, perché questo è un paese che va rifondato innanzitutto dalla concezione complessiva delle istituzioni dello Stato e poi soprattutto in ambito economico, in ambito fiscale, nell'ambito del lavoro. Quindi è questo il tentativo che va rilanciato, e da questa cosa dovrebbe nascere una cosa nuova, che ora non c'è, perché se pensiamo ancora di poter sommare le cose esistenti, insomma, non facciamo altro che fare il gioco di Renzi, e laddove c'è una prateria, in senso politico, rischiamo di creare un deserto, che è esattamente secondo me quello a cui Renzi mira, avere come antagonista soltanto Matteo Salvini, così vince facile, la Lega prenderà pure delle buone percentuali, ma vince facile, perché quella cosa là non arriverà mai ad avere la forza per governare. Grazie senatore Quagliariello. A lei. Grazie, buona continuazione. Saluto Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Chi ha ascoltato l'intervento del senatore Quagliarello, condividi quello che diceva, soprattutto in ultima analisi? Beh, condivido, lo trovo più che altro molto deluso, e ha ragione a essere deluso, insomma, da questa vicenda ne escono a pezzi, ne esce a pezzi tutto il centrodestra, ne esce a pezzi in particolare il Nuovo Centrodestra, che ha dimostrato in sostanza di essere davvero, davvero marginale in questa alleanza di governo. Mi ha sorpreso non tanto come è andata la trattativa del Quirinale, dove loro hanno sbagliato tutto all'inizio e non poteva che finire così, ma come Renzi continua in qualche modo a umiliarli anche successivamente. La frase di oggi è terribile, non perderò tempo a trattare con le correnti dei partitini. Sembra quasi che appunto dopo aver stravinto Renzi continua a voler dimostrare che il governo è lui, e che in qualche modo appunto di questi alleati lui non è che tiene conto più di tanto. E quindi adesso come si procede secondo te, Fabrizio? Ma guarda, come si procede? Renzi appunto ha la forza, ha stravinto, ha la forza politica per andare avanti e potrà contare su queste maggioranze variabili a cui faceva riferimento anche Quagliariello, quindi sulle riforme andrà avanti tranquillamente con Berlusconi, sui provvedimenti di governo, sull'economia probabilmente andrà avanti ancora con il centrodestra e si tirerà dietro quella parte di PD che ha votato il Quirinale ma che poi appunto è riottoso sia sulle riforme istituzionali sia su alcuni provvedimenti economici. Io vedo soprattutto questo come rischio per il governo. Il governo, l'abbiamo scritto, deve ora, superata questa pausa, questa parentesi del Quirinale che fortunatamente si è risolta rapidamente, deve puntare tutto sull'economia perché sia il governo si gioca il suo destino, sia il paese si gioca il suo destino sui provvedimenti economici. Se questo PD riunificato farà da freno sui provvedimenti economici sarà un problema. Io spero che la minoranza PD che, come dire, ha seguito sul Job Act in particolare, la maggioranza che si è spinta molto verso, come dire, una tendenza liberale nei suoi provvedimenti, spero che questa appunto rinnovata unità del PD non faccia invece da freno tornando verso una conservazione sulle riforme economiche. E credo che sia il timore anche di Renzi, perché la lettera che oggi ha mandato al suo partito è tutta in questa direzione. Ora andiamo avanti per cambiare, perché ci siamo riuniti, ma noi siamo il PD che deve cambiare il paese. Fabrizio Forché, senti, che ne pensi del fatto che Toti, il consigliere di Forza Italia di Berlusconi, ha teso la mano a Fitto, il frondista, diciamo così, dicendo facciamo un patto generazionale, è solo una questione quindi di rinnovare la leadership, questo potrebbe dare una spinta, un impulso al centrodestra? No, le cose non sono così semplici e devo dire fanno sorridere, diciamo, questi tentativi di ricomposizione nel centrodestra, ma che chiaramente non sono a livello o alla portata dei problemi che il centrodestra ha davanti. Il centrodestra davvero ha bisogno di una radicale rifondazione e io credo che il problema del centrodestra in questo momento sia avere due uomini che sono troppo forti per permettere una rifondazione che passa da un'altra parte, ma troppo deboli per essere loro l'elemento della rifondazione, e mi riferisco evidentemente a Berlusconi e a Salvini. Berlusconi è ancora troppo ingombrante nel centrodestra per permettere che nasca qualcosa di alternativo, ma lui non ha la forza, come ha fatto in passato, di unificare il centrodestra, e Salvini ha una grande forza popolare ma non potrà mai essere l'elemento maggioritario che porta il centrodestra al governo di questo paese. Per cui, come dire, i due elementi di forza sono anche i due elementi di debolezza. Questo è un po' il problema del centrodestra oggi. Grazie Fabrizio Forché. Grazie a voi. Ciao Fabrizio. Ciao. Insomma, una situazione che lascia aperte tante possibilità, tante prospettive. Per il momento ci fermiamo qui, facciamo le nostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Torno tra poco, parliamo del caso di Loris. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, velocemente ve le riassumo le notizie principali, naturalmente quelle che riguardano il Quirinale, domani il giuramento di Mattarella, Renzi dice ora mettiamo il turbo, non sprecherò tempo con i partitini, Lupi replica non siamo tappetini, per Berlusconi fine pena anticipata, abbiamo appena sentito il senatore Quagliariello sulle prospettive del nuovo centrodestra, l'omicidio di Loris, il tribunale del riesame nelle motivazioni per il no alla scarcerazione di Veronica Panarello, scrive agì da lucidissima assassina, la crisi ucraina con gli Stati Uniti che valutano il rifornimento di armi a Kiev e poi auto partenza sprint per il mercato dell'auto italiano a gennaio con più 10,9%, il calcio mercato che chiude alle 23, di questo parleremo dopo. Perché adesso invece parliamo del caso del piccolo Loris. Il tribunale di riesame ha depositato le motivazioni con cui ha confermato la custodia cautelare in carcere per la mamma di Loris, Veronica Panarello, che è accusata, lo sapete, dell'omicidio del figlio piccolo Loris Estival di 8 anni avvenuto a Santa Croce Camerina nel Ragusano il 29 novembre scorso. Nelle 109 pagine di motivazioni si parla di una trama indiziaria fittissima che trova il suo addentellato principale nei comportamenti anche processuali della Panarello. Insomma, si legge in questa ordinanza che avrebbe agito con agghiacciante indifferenza da lucidissima assassina, manifestando una pronta reazione al delitto di cui si è resa responsabile, con la volontà di organizzare l'apparente rapimento del figlio Loris a scopo sessuale. Avrebbe simulato, insomma, un rapimento a scopo sessuale. C'è il rischio di recidiva e inquinamento delle prove. Allora, poco fa, poco prima della trasmissione, ho sentito l'avvocato di Veronica Panarello, l'avvocato Francesco Villardita. Sentiamo che cosa ci ha detto. Avvocato Francesco Villardita, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, come commenta le motivazioni del Tribunale di Riesame, no? Ha depositato le motivazioni che hanno confermato la custodia cautelare in carcere per Veronica Panarello? In tutta onestà io le posso dire di avere letto sommariamente, ma molto sommariamente, perché il provvedimento è corposo e quindi ha la necessità di essere studiato, di aver letto sommariamente le motivazioni, e per quello che mi è apparso ritengo che sotto il sole di nulla di nuovo non ci sia assolutamente nulla. Sono delle valutazioni che sono state già fatte dalla pubblica accusa e il provvedimento mi sembra, almeno in questa sommaria e prima lettura, non ancorato a dati oggettivi e con una motivazione che appare, ripeto, ma la prenda sempre con le pinze questa mia dichiarazione, appare illogico e contraddittorio. Da una successiva studio approfondito, seppur in tempi brevi, valuteremo se o non proporre ricorso per Cassazione. Senta, però sul fatto che insistano sul descriverla come una lucidissima assassina, che abbia agito da lucidissima assassina anche simulando un rapimento a sfondo sessuale per sviare le indagini. Sì, ed è la ricostruzione operata dalla procura e quindi dall'accusa, ma ripeto, tutto ci può stare sulla valutazione della personalità, ove si ritenga sussistente un quadro indiziario grave. E quindi, ripeto, non mi preoccupa più di tanto la valutazione sulla personalità dell'indagata, della signora Panarello, perché se si ritiene la responsabilità penale di un fatto di tale gravità, si deve necessariamente arrivare a definirla lucida assassina, altrimenti non si può assolutamente condividere l'apparato accusatorio. Quindi ritengo che la valutazione che va fatta, che ha fatto il Tribunale del Riesame, che ritiene la sussistenza di un quadro indiziario, non poteva non portare lo stesso Tribunale a definire lucida assassina, considerato che crede alla impostazione accusatoria, seppur, ripeto, con tutte le contraddizioni e le illogicità che possono emergere dalla motivazione, ma che va ancora analizzata e studiata. E dico ancora una cosa, avvocato Villardita, sempre in queste motivazioni si dice che il delitto, secondo questi giudici del riesame, sarebbe stato verosimilmente propiziato da una circostanza occasionale, cioè la discussione della mamma con Loris, che quella mattina, sconvolgendo i piani di Veronica Panarello, vuole rimanere con la mamma perché è incuriosito dal suo look esteticamente curato, come se lei dovesse vedere qualcuno, insomma. E non le appare, non le sembra questa una illogicità manifesta della motivazione, che si pone in contrasto con un dolo di proposito piuttosto che con un dolo di impeto? Quindi anche questa valutazione, a mio modo di vedere, si pone in contrasto con quella che è stata indicata dagli inquirenti, la sequenza omicidiaria, e con quella che sono le risultanze investigative, perché se c'è un dolo di impeto, per come indicato in ordinanza, va a contrastare con quella che è una sorta di preparazione dell'evento omicidiario, che tutto invece porterebbe a ritenere un dolo di proposito e non un dolo di impeto. Anche questa, a mio avviso, è una illogicità manifesta della motivazione. Avvocato Villardita, le faccio l'ultima domanda. Lei ha visto, immagino di recente, Veronica Panarello. Come sta? Che cosa dice? Come sta? Si protesta resta sempre innocente, continua a combattere e continuerà, ritengo, a farlo, solo che ovviamente sotto il profilo fisico è una donna distrutta, perché le lascio solo immaginare una persona che arriva a pesare oggi 38 kg e che ne ha perduto 9 in 8-9 in carcere, in quali condizioni fisiche si trova e in quali condizioni psicologiche si trova per la scomparsa del figlio, per non poter vedere l'altro figlio e per essere privata della propria libertà personale. Intanto la ringrazio, allora, avvocato Villardita. Grazie a lei, grazie a buon lei. Lavoro, buona serata. Buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Bene, avete sentito l'avvocato di Veronica Panarello, Francesco Villardita. Adesso brevemente vorrei interpellare Peppe Savà, che saluto, ciao Peppe. Buonasera. Che è giornalista di Ragusa News, che ha seguito molto da vicino la vicenda. Vorrei chiederti, le indagini vanno avanti, se ha qualche novità, che clima c'è lì a Santa Croce Camerina? Perché prima per esempio madre e sorella di Veronica l'hanno accusata a spada tratta, adesso invece la difendono. Si sta cercando qualcun altro, un possibile complice ancora o no? Ma guarda, c'è sempre la storia di presunte relazioni extraconiugali di Veronica, però questa pista sino ad oggi non ha portato a nulla di concreto. Certo fa specie, Roberta, leggere nelle motivazioni che il Tribunale del Riesame ha pubblicato oggi il movente. Cioè, sino ad oggi la magistratura inquirente aveva lasciato un po' lacunosa questa parte, questo elemento, cioè non era chiaro quale fosse il movente per cui Veronica avrebbe dovuto uccidere il bambino. Si diceva forse perché il bambino aveva visto qualcosa che non doveva vedere, ad esempio se Veronica avesse un amante, in quel momento avesse incontrato un proprio amante. Questa cosa, che pure non è scritta nel dispositivo, nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dalla magistratura inquirente, questo elemento viene invece sviscerato dal Tribunale del Riesame, e viene sviscerato oggi in maniera totalmente inedita. Cioè il Tribunale del Riesame dice: il bambino vede la madre elegante, curata, con un look accattivante, si insospettisce o si incuriosisce, dice: mamma, io oggi non voglio andare a scuola, voglio stare con te. Veronica, innervosita dall'insistenza del figlio, che diventa un ingombro, un intralcio sul proprio cammino, decide di per lì, in maniera subitanea, improvvisa, in preda a una collera isterica e irreprimibile, di ucciderlo. Questa è una versione dei fatti, Roberta, totalmente inedita, che ci consegna oggi il Tribunale del Riesame. Ma fino ad oggi nessuno aveva ricostruito in questi termini la vicenda. C'era sempre detto: il movente potrebbe essere che il bambino ha visto ciò che non doveva vedere. Invece per la prima volta viene data questa spiegazione. Peppe Savà, avremo modo di risentirci, per ora mi stiamo correndo, ti ringrazio di aver rilevato ulteriormente questo aspetto. Peppe, ti saluto e ti auguro buon lavoro. A voi. Ciao Peppe. Europa 24 notte. Parliamo adesso del trattato tra Stati Uniti e Europa. Il responsabile del Parlamento europeo per le trattative tra Stati Uniti e Europa sul commercio globale, De Castro, difende il trattato tra i due paesi e dice che le preoccupazioni di chi pensa che questo accordo abbasserà le tutele per i consumatori non sono motivate. Viceversa, Marco Bersani, responsabile della campagna Stop TTP, che è il nome di questo contratto, dice che è un accordo solo a favore delle multinazionali. Il primo round di negoziati è partito a luglio 2013, oggi siamo arrivati all'ottavo. L'obiettivo è creare la più grande area di libero scambio del mondo tra Europa e Stati Uniti, aumentare la possibilità di fare investimenti, aiutando le imprese e l'economia a risollevarsi. Niente più dazi, niente più confini commerciali, né differenze di regolamenti. Secondo le stime più ottimistiche, l'abolizione delle barriere porterebbe milioni di nuovi posti di lavoro, una crescita del PIL al 2027 di 90 miliardi di euro per gli Stati Uniti, di 120 120 miliardi per l'Unione Europea, pari allo 0,5% del PIL. Altri invece parlano di uno 0,025% al massimo. Moltissime le critiche. È un trattato fatto su misura per le multinazionali, ci spiega Marco Bersani, uno dei promotori della campagna Stop TTIP. In questi giorni a Bruxelles, che per il 18 aprile ha organizzato una mobilitazione a livello mondiale. Questo trattato sostanzialmente vuole costruire l'utopia delle multinazionali, cioè mettere i diritti del lavoro, i diritti ambientali, i diritti sociali e i beni comuni al servizio dei profitti. Bersani si riferisce in particolare all'abolizione delle barriere non tariffarie in tutti i settori: chimica, TLC, farmaceutica, energia, agricoltura, alimentare e così via. L'obiettivo è quello di eliminare tutte le norme non tariffarie che ostacolano la libertà di investimento, tutte quelle normative che i paesi possono aver adottato che in qualche modo ostacolano la libertà delle multinazionali di poter investire. Il timore riguarda le possibili minori regole su sostanze tossiche, farmaci, internet, ma soprattutto prodotti alimentari e il conseguente via libera all'ingresso di pesticidi finora vietati, cibi senza etichettatura, carni con antibiotici e ormoni. Preoccupazioni inutili, dice Paolo De Castro, relatore permanente del Trattato Transatlantico per l'agroalimentare. I negoziati commerciali non cambiano i regolamenti, per cui chi dice che il negoziato commerciale mette in difficoltà la qualità dei prodotti europei dice una cosa non vera. Le nostre leggi sulla sicurezza alimentare non cambiano con il negoziato, noi terremo le nostre leggi. Per poter far cambiare le nostre leggi, i nostri regolamenti, ci vogliono altre leggi, altri regolamenti. Uno dei punti più controversi riguarda la costituzione dell'arbitrato internazionale tra stati e aziende, un tribunale commerciale ad hoc per proteggere gli investimenti internazionali delle imprese straniere. In sostanza, le aziende potranno citare in giudizio per danni enti locali e stati sovrani che si opporranno alla commercializzazione di determinati prodotti. Non sappiamo ancora cosa succederà, sottolinea De Castro. Le trattative sono in corso, ancora non c'è un accordo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 ore. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Vedo moltissimi vostri messaggi sulla politica, ma sono di corsa, li leggerò poi per conto mio. Saluto Dario Ricci perché ci deve parlare di calciomercato. Dario, che sta per chiudere. Sì Roberta, manca un'ora e cinque minuti alla fine di questa sessione, l'ultima dell'anno del calciomercato. Qualche affare in volata: salta il passaggio di Armero dal Milan al Genoa, Osvaldo tanto conteso probabilmente andrà al Boca Juniors in Argentina, Salah l'egiziano alla Fiorentina, ma tiene banco anche il caso Eto'o con il campione camerunese appena arrivato alla Sampdoria che ha già litigato con il tecnico Mihajlovic. È in corso un vertice tra il presidente Ferrero e lo stesso tecnico Doriano per decidere il da farsi, è atteso un comunicato a breve. Insomma, forse, chissà, l'avventura di Samuel Eto'o a Genova, nella Genova Doriana, potrebbe già essere al capolinea, staremo a vedere. Grazie Dario Ricci, chi va e chi viene, insomma, il mercato dei calciatori. A questo punto ci salutiamo brevemente, poi sapete che ritorno giusto a ricordarvi le notizie principali.